potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Benvenuti in una nuova prospettiva della cinofilia moderna. scuolaformazionecinofila.it. Allora, ok, analizziamo bene la questione di oggi. Capita spesso, sai, si porta a casa un cane, magari cucciolo o preso il canile, e scatta subito questa strana aspettativa, no? Esatto, sì, la famosa aspettativa del dispositivo tecnologico. Proprio quella. Cioè, si pensa di avere davanti un nuovo elettrodomestico. Si legge il manuale di addestramento, si preme il pulsante seduto, dà il bocconcino e tac, il risultato è garantito. Un processo super lineare e pulito, diciamo. Molto rassicurante. Finché la lavatrice a quattro zampe decide che, che ne so, lo scoiattolo dall'altra parte della strada o la bici che passa sono molto più interessanti del tuo comando. E lì il sistema va completamente in tilt, chiaramente. E la reazione umana classica qual è? Cerchiamo l'errore di programmazione. Alziamo la voce, tiriamo il guinzaglio. Esatto, presumiamo che l'hardware, cioè il cane in questo caso, sia difettoso o ribelle o che semplicemente, insomma, ci stia facendo un dispetto. È una mentalità puramente binaria. Comando uguale esecuzione. Ed è esattamente l'illusione che vogliamo smantellare in questo approfondimento, perché i materiali di oggi partono da un'idea folgorante. Un cane non è un elettrodomestico da programmare in 10 comode lezioni. Per fortuna, aggiungerei. Assolutamente. Oggi ci basiamo sulla filosofia del metodo di Michele Amico, che applicano alla scuola formazione cinofila nel centro di Cassinone a Seriate. L'obiettivo qui non è imparare i trucchetti da circo per impressionare i vicini al parco. No, per niente. È capire come passare da una gestione meccanica, che genera una frustrazione infinita per tutti, a una, diciamo, vera competenza relazionale e spaziale. Che poi è un cambio di paradigma radicale, sai? Voglio dire, per decenni l'educazione cinofila è stata praticamente una transazione commerciale mascherata da pedagogia. I famosi pacchetti da 10 ore? Proprio quelli. Ti illudono di poter comprimere la complessità di una relazione interspecie in un tempo che misuri col cronometro. Invece il vero obiettivo dovrebbe essere allineare lo stile di vita del cane ai suoi bisogni biologici reali. Abbandonando la pura meccanica? E le punizioni, certo. Ma anche quelle narrazioni antropomorfiche, sai, la tendenza a umanizzare il cane dandogli colpe o pensieri prettamente umani. E qui sbattiamo contro un muro gigantesco, cioè il grande mito dell'ubbidienza. C'è quest'idea radicata che i cani capiscano il nostro vocabolario astratto, ma la realtà è che loro vivono di inviti all'azione. Cioè, se un cane non risponde, non è per sbeffeggiare l'autorità umana. Semplicemente l'ambiente non offre i giusti prerequisiti in quel momento. Mi viene in mente un'analogia. Vai. È come prendere una bellissima pianta tropicale, chiuderla in uno sgabuzzino completamente buio e poi, vedendo le foglie gialle, iniziare a urlarle contro perché non fiorisce. Renderebbe perfettamente l'idea. Le urli, lo fai per farmi un dispetto, sei una pianta ribelle, è palesemente assurdo. È la stessa identica assurdità di aspettarsi un risultato biologico ignorando i bisogni ambientali. Quando un cane tira come un forsennato al guinzaglio o abbaia una bici, non sta mettendo in atto un piano machiavellico per rovinarti la passeggiata della domenica. Certo. Sta solo rispondendo all'ambiente in base agli strumenti percettivi che ha in quel momento e in quello spazio. Aspetta però, qui voglio fare l'avvocato del diavolo un attimo. Dimmi. Immagino benissimo la frustrazione di chi ci ascolta. Sei al parco, sotto la pioggia, urli il nome del tuo cane e lui corre felice dietro a un pallone o a un altro cane. Se sente il suo nome, sa benissimo chi lo chiama. Certo. Se sceglie deliberatamente di ignorare la voce e farsi i fatti suoi, cioè come si fa a non considerarla pura ostinata testardaggine? Guarda, come reazione umana la capisco perfettamente, ma dobbiamo guardare alla biologia, non alla morale. La parola testardo implica una premeditazione logica tipicamente umana. Del tipo, so cosa vuoi, ma decido di oppormi. Esattamente, per riaffermare l'indipendenza. No, il cervello del cane non funziona in questo modo. Non soppesa le opzioni su una bilancia etica. Risponde a una precisa gerarchia di stimoli sensoriali. In che senso una gerarchia sensoriale? Spiegami meglio. Allora, Il sistema neurologico del cane è progettato per dare priorità assoluta all'olfatto e al movimento visivo rapido. Quando vede, ad esempio, una lepre che corre o sente un odore molto intenso, nel suo cervello scatta la sequenza predatoria o esplorativa. Ah, è l'udito. La corteccia uditiva passa letteralmente in secondo piano. Non è che sente la voce e pensa a ora ti ignoro, è che il suo cervello è cognitivamente assorbito al 99% dal tracciamento visivo o olfattivo. Wow, quindi lo stimolo ambientale è talmente forte che la voce umana scompare proprio. Perde fisicamente di significato, sì. Cercare consolazione nelle storielle umanizzate, dire che il cane è testardo o vendicativo, non risolve il problema alla radice. Chiaro, perché non capiscono le nostre narrazioni astratte. E allora, la domanda sorge spontanea. Se togliamo il nostro vocabolario e scartiamo l'idea del dispetto, quale lingua parlano esattamente? È bella domanda. Se non capiscono il concetto di ubbidiente o cattivo, cosa muove le loro scelte al parco? Si muovono secondo un concetto preso in prestito dalla psicologia della percezione, che è l'affordance. Che sarebbe la disponibilità ambientale, giusto? Esatto, l'insieme delle azioni che un certo ambiente o un oggetto invitano a compiere in un dato momento. Per fare un esempio su noi umani, vediamo una maniglia e il nostro cervello sa che invita a essere abbassata. O una sedia invita a sedersi. Perfetto. Per un cane il mondo intero è una mappa continua e dinamica di queste affordance. Quindi, un grande prato aperto è un invito fisico a correre. Un odore forte sul marciapiede è un invito inequivocabile a esplorare. E un cane che scatta è un invito a inseguire. Precisamente. L'aspetto affascinante qui è proprio questo. L'organismo biologico del cane risponde a queste leggi. Se sceglie la distrazione invece di tornare da chi lo chiama, è perché in quello spazio, in quell'istante, l'ambiente gli offre una possibilità d'azione incredibilmente più attraente. Un affordance migliore. Esatto. Il metodo di Michele Amico non dice mai «il cane ha colpa». L'attenzione si sposta su come noi ci rendiamo comprensibili. E come si fa? Attraverso lo spazio e il corpo. Ed è qui che entra in gioco un altro concetto fondamentale della comunicazione canina, la prossemica. Ok, chiariamo bene questo termine per chi ci ascolta. Cos'è esattamente la prossemica? È lo studio di come gestiamo lo spazio intorno a noi per comunicare. Noi umani siamo incredibilmente focalizzati sulla parola e sul volto, no? Ci parliamo faccia a faccia. Certo. I cani invece sono maestri dello spazio, leggono le traiettorie, la postura, perfino il peso scaricato su una gamba piuttosto che su un'altra. Imparare la prossemica significa usare il proprio corpo per diventare l'invito all'azione più importante in quel momento. Ed è qui che la cosa si fa davvero interessante. Senti questa analogia. Mi viene in mente lo schermo di uno smartphone. L'ambiente esterno, il parco, le altre persone, sono come decine di notifiche push che arrivano tutti insieme sul telefono, colorate, rumorose, piene di dopamina. Rende benissimo l'idea. Se l'umano resta piantato immobile, rigido, urlando un comando incomprensibile, è come un noioso banner pubblicitario testuale a fondo pagina. Il cane vuole solo chiuderlo. Esatto. L'obiettivo, usando questa famosa prossemica, è diventare l'applicazione più divertente e interattiva del telefono, quella su cui il cane non vede l'ora di cliccare. Perfetto. E per diventare quella prioritaria bisogna abbandonare l'egocentrismo verbale. Ti faccio un esempio pratico di come la prossemica cambia le cose. Vai, sono curioso. Immagina che il cane stia per lanciarsi verso un altro cane. L'istinto umano tipico è piantare i piedi a terra, tirare indietro il guinzaglio con forza e urlare no o fermo. Il classico disastro assicurato, direi. Assolutamente. Non fai altro che aggiungere tensione fisica e alzare il livello di eccitazione del cane, che percepisce la resistenza e tira ancora di più. E invece con la prossemica? Con la prossemica non ti affidi alla voce, ti affidi al movimento, fosse anche solo un passo laterale deciso che intercetta fisicamente la linea visiva del cane. Quindi gli spezzi la traiettoria dello sguardo. Esatto. Si crea una pressione spaziale morbida, ma ferma. Il tuo corpo comunica, questo spazio lo sto gestendo io e l'azione interessante si sposta con me. Il cane comprende questa lingua all'istante, non deve tradurre una parola astratta, reagisce a una presenza fisica. È affascinante. Ma mettendoci nei panni di chi affronta queste difficoltà tutti i giorni, è evidente che passare dal dire seduto al comunicare fluidamente con la postura non è una passeggiata. Per niente. Non basta certo leggere un manuale in una sera. Serve molto più di un'ora di teoria. Serve quello che viene definito il tempo di rielaborazione. Pensa agli ambienti urbani, marciapiedi stretti, rumori improvvisi, guinzagli corti. Che immagino siano una stress continua. Hanno un impatto devastante sulla biologia canina. Il guinzello in tensione agisce quasi come un cavo del telegrafo che trasmette ansia e rigidità dall'umano al cane. In questo contesto, il cane perde il suo scopo naturale, la sua identità di animale sociale. Diventa solo un fascio di reazioni, insomma. Esatto, reazioni a stimoli soverchianti. E per invertire questa tendenza serve pratica. E questa pratica ha un momento ben preciso a Casinone, che è il famoso rito del sabato, no? Mi ha colpito molto scoprire cosa succede realmente in questi incontri di gruppo al campo. Immagino, perché è molto diverso da quello che ci si aspetta. Infatti non sono la classica fila di proprietari con i cani al guinzaglio che fanno slalom tra i coni, vero? Niente affatto. Ogni sabato il cane viene inserito in un gruppo per un motivo profondo. Deve imparare a comprendere le affordance sociali, libero dall'ansia trasmessa dal guinzaglio. Torna a usare il suo etogramma naturale. Ritorna a leggere l'asse del corpo degli altri cani. Capisce quando un minuscolo irrigidimento delle spalle significa «dammi spazio, non voglio interagire», o quando un inchino è un invito al gioco. Riallinea il suo stile di vita ai suoi veri bisogni. Non sta imparando comandi alieni, sta riscoprendo chi è. Esattamente. E dal lato umano la sfida deve essere altrettanto spiazzante. Trovare te stesso, in mezzo a un prato, in silenzio, dovendo comunicare solo col corpo, per chi è abituato a gestire tutto con la voce, wow, mi ricorda enormemente l'apprendimento di un ballo di coppia. In che modo lo vedi simile? Pensa a chi vuole imparare il tango. Non puoi leggere un libro, che ne so, i 10 segreti del tango, scendere in pista e ballare perfettamente. Serve memoria muscolare. Certo. Le prime volte l'attenzione è tutta frammentata. Pensi a dove mettere il piede, a come tenere le spalle, sei goffo, rigido. E se sbagli un passo, non urli al partner, sei testardo. No, sai che non sei stato chiaro tu. Esatto. Fai piccoli passi, rielabori, pratichi, finché quella postura diventa la nuova normalità quotidiana. È un parallelo perfetto. Il cambiamento qui non è accademico, è profondamente fisico. Costruire questa memoria richiede costanza. Per questo dicono che il sabato non deve essere un impegno faticoso da spuntare in agenda, ma è il momento in cui ci si prende del tempo di qualità. E questo cambia completamente la prospettiva. Sposta l'attività dall'ennesima rottura di scatole settimanale a un momento di connessione reale. Si va per esistere insieme, disintossicandosi dall'ansia del risultato. Si smette di ragionare in termini quantitativi tipo quante volte si è seduto e si passa a termini qualitativi. Ma allora arriviamo alla grande domanda di sintesi. Se abbandoniamo l'esibizione da obbedienza, se non ci interessa quanto velocemente riporta una pallina, qual è il traguardo finale? Se colleghiamo questo al quadro generale, si tende a un'evoluzione radicale. Il passaggio dalla reazione alla disponibilità ambientale. Spieghiamolo bene per chi ci ascolta. Cosa significa per un cane avere disponibilità ambientale? Immaginiamo un cane in un contesto caotico, una piazza affollata, rumori forti, persone che corrono. Un cane che ha sviluppato disponibilità ambientale non andrà in cortocircuito. Non esploderà come una molla contro ogni stimolo? No. E allo stesso tempo non rimarrà paralizzato dal terrore di uno strattone. Riuscirà a mantenere un equilibrio funzionale, un baricentro emotivo stabile, mentre il mondo intorno si agita. Il suo scopo è gestire le infinite proposte del mondo, mantenendo la propria centratura. Quindi è la differenza tra sopravvivere a stento in un ambiente e abitarlo con competenza. Esatto, è un doppio binario in questo viaggio. L'animale impara a fluire nello spazio. E l'umano? Invece di imporsi come un controllore stressato, impara a orchestrare le possibilità. Diventa un regista silenzioso dello spazio condiviso. Passi da una visione passiva in cui il cane subisce l'ambiente e noi subiamo il cane, a una visione proattiva in cui impari ad abitare il mondo insieme. Non andiamo a Casinone per aggiustare un cane rotto, ma per costruire competenze psicofisiche. E il riflesso sulle persone deve essere immenso. Voglio dire, qualcuno potrebbe ancora chiedersi perché imbarcarsi in una roba così profonda invece di pagare per avere un cane rassegnato e silenzioso. La risposta è nella qualità della vita. Proprio così. Liberarsi dall'idea del telecomando abbatte drasticamente la frustrazione quotidiana. Non devi più controllare meccanicamente ogni singolo respiro di un altro essere vivente. Apri la porta a un dialogo autentico, basato sul rispetto. Costruisci una competenza che resiste alle tempeste della vita reale. E questo ci porta alla fine di questa chiacchierata, con una provocazione che lascio a te. Questo solleva una domanda importante, che va ben oltre i guinzagli. Abbiamo analizzato come gli ambienti urbani, stringenti, la fretta e le imposizioni finiscano per snaturare i bisogni biologici del cane, rendendolo stressato e disconnesso. Ebbene, osservando le nostre vite, è impossibile non chiedersi se i nostri ritmi urbani accelerati e il sovraccarico digitale non stiano facendo esattamente la stessa identica cosa alla nostra biologia umana. È una prospettiva che fa venire i brividi, ma estremamente reale. Forse reimparare a orchestrare lo spazio, capire l'importanza della postura e del respiro per aiutare i cani ad abitare con competenza il mondo, è in realtà il primo passo per salvare noi stessi. Per diventare noi stessi un'isola di calma. Esatto. Diventa il pretesto per rimparare ad abitarlo noi, questo mondo, smettendo finalmente di esplodere verso ogni singola notifica o stimolo che la società ci lancia addosso ogni secondo. È una riflessione bellissima. Nel tentativo di non trattare i cani come elettrodomestici, potremmo finalmente ricordarci che non lo siamo nemmeno noi e che magari, quando i circuiti sembrano saltare, la cosa migliore non è forzare il sistema, ma fermarsi, fare un passo di lato e ritrovare il proprio spazio. Potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Benvenuti in una nuova prospettiva della cinofilia moderna. Scuolaformazionecinofila.it.